Esteban Trueba entrò in un periodo molto prospero. I suoi affari parevano toccati dalla bacchetta magica, si sentiva soddisfatto della vita. Era ricco, così come se l'era imposto una volta, aveva la concessione di altre miniere, stava esportando frutta all'estero, fondò un'impresa di costruzioni. E le Tre Marie, che erano cresciute in estensione, erano diventate la migliore azienda della zona. Non lo danneggiò la crisi economica che aveva travolto il resto del paese. Nelle province del nord, il fallimento delle miniere di Salnitro aveva gettato nella miseria migliaia di lavoratori, la famelica tribù di disoccupati che trascinavano le loro mogli, i loro figli, i loro vecchi in cerca di lavoro lungo le strade, era finita per avvicinarsi alla capitale e lentamente aveva formato un cordone di miserie intorno alla città. Sistemandosi in qualche modo, tra assi e pezzi di cartone in mezzo all'immondizia e all'abbandono. Vagavano per le strade chiedendo una possibilità di lavoro, ma non c'era lavoro per tutti, e a poco i rudi operai, dimagriti per la fame, striminziti dal freddo, laceri, desolati, cessarono di chiedere lavoro e chiesero semplicemente un'elemosina. Si riempì di mendicanti e poi di ladri. Non si erano mai viste gelate tanto terribili come quell'anno. Venne la neve nella capitale, uno spettacolo inusitato che rimase a lungo in prima pagina sui giornali. Celebrata come una notizia festosa, mentre tra la gente emarginata si svegliavano bambini blu congelati e non bastava neppure la carità per tanti derelitti. Quello fu l'anno del tifo esantematico. Cominciò come altre calamità dei poveri e subito acquisì caratteristiche di piaga divina. Nacque nei quartieri degli indigenti, per colpa dell'inverno, della denutrizione, dell'acqua sporca, dei canali di scolo, e si aggiunse alla disoccupazione, si diffuse in ogni dove. Gli ospedali non erano sufficienti, i malati giravano per le strade con lo sguardo smarrito, si toglievano i pidocchi e li tiravano contro la gente sana. La piaga si diffuse, entrò in tutte le case, infettò le scuole, le fabbriche, nessuno poteva sentirsi sicuro. Tutti vivevano con paura, scrutando i segni che annunciavano la terribile malattia. I contagiati cominciavano a battere i denti per un freddo mortale nelle ossa e poco dopo erano preda dell'intontimento. Rimanevano come rimbecilliti a consumarsi nella febbre, pieni di macchie, a cagare sangue, fra deliri di fuoco e di naufragio, a cadere a terra con le ossa di lana, le gambe di pezza, un gusto di bile in bocca e il corpo in carne viva. Una pustola rossa accanto a un'altra blu e a un'altra gialla e un'altra nera, vomitando perfino le budella e invocando Dio che abbia pietà e li lasci morire una volta per tutte, che non ce la fanno più, che la loro testa scoppia e l'anima se ne va fra merda e spavento. Esteban propose di portare tutta la famiglia in campagna per sottrarla al contagio, ma Clara non volle sentir parlare della faccenda. Era molto occupata a soccorrere i poveri, in una fatica che non aveva né principio né fine. Usciva molto presto e talvolta rincasava verso mezzanotte, vuotò gli armadi di casa, tolse indumenti ai bambini, le coperte ai letti, le giacche al marito. Toglieva il cibo dalla dispensa e aveva instaurato un sistema di spedizione con Pedro Segundo Garcia, il quale inviava dalle Tre Marie formaggi, uova, carne salata, frutta, galline che lei distribuiva fra i suoi indigenti. Si assottigliò e si vedeva che era dimagrita. Di notte riprese a camminare da sonnambula. L'assenza di Ferula fu sentita come un cataclisma nella casa e perfino la nana, che aveva sempre desiderato che arrivasse quel momento, si era commossa. Quando cominciò la primavera e Clara poté riposare un poco, aumentò la sua tendenza a evadere dalla realtà e a perdersi nelle fantasticherie, sebbene non potesse più contare sull'impeccabile organizzazione di sua cognata per sbaraccare. Il caos della grande casa dell'angolo si disinteressò delle cose domestiche, mise tutto nelle mani della nana e degli altri servitori e si immerse nel mondo dei fantasmi e degli esperimenti psichici. I suoi diari si ingarbugliarono, la sua calligrafia perse l'eleganza conventuale che aveva sempre avuto e degenerò in tratti aggrovigliati che talvolta erano così minuscoli da non potersi leggere e talaltra così grandi che tre parole riempivano una pagina. Negli anni successivi si radunò intorno a Clara e alle tre sorelle Mora un gruppo di studiosi di Gurdjieff, di Rosa Croce, di spiritisti e di bohemien trassognati che facevano tre pasti al giorno nella casa e che alternavano il loro tempo tra consultazioni perentorie agli spiriti del tavolino a tre gambe e la lettura dei versi dell'ultimo poeta illuminato atterrato sul grembo di Clara. Esteban permetteva questa invasione di stravaganti perché da molto tempo si era reso conto che era inutile interferire nella vita di sua moglie. Decise che almeno i figli maschi dovevano stare al margine della magia, sicché Jaime e Nicolás furono fatti entrare in un collegio inglese vittoriano, dove ogni pretesto era buono per calar loro i pantaloni e prenderli a vergate sul sedere. Specialmente Jaime, che si beffava della famiglia reale britannica e a 12 anni era interessato alla lettura di Marx, un ebreo che provocava rivoluzioni in tutto il mondo. Nicolás aveva ereditato lo spirito avventuroso del prozio Marcos e la tendenza a fare oroscopi e a decifrare il futuro da sua madre. Ma questo non costituiva un delitto grave nella rigida formazione del collegio, solo un'eccentricità, ragion per cui il giovane venne picchiato meno di suo fratello. Il caso di Blanca era diverso perché suo padre non interferiva nella sua educazione. Pensava che il suo destino era di sposarsi e di brillare in società, dove la facoltà di comunicare con i morti, se veniva mantenuta sul tono frivolo, avrebbe potuto essere un'attrattiva. Sosteneva che la magia, come la religione e la cucina, era una faccenda eminentemente femminile e forse per questo era capace di provare simpatia per le tre sorelle Mora, mentre detestava gli spiritati di sesso maschile quasi quanto i preti. Da parte sua, Clara girava sempre con sua figlia attaccata alle sottane, la invitava alle sedute del venerdì e la allevò in stretta familiarità con gli spiriti, con i membri delle società segrete e con gli artisti miserrimi ai quali faceva da mecenate. Come aveva fatto con lei sua madre ai tempi del mutismo, portava ora Blanca a visitare i poveri carica di regali e di conforti. Questo serve a tranquillizzarci la coscienza, figlia, spiegava Blanca. Ma non aiuta i poveri, non hanno bisogno di carità, bensì di giustizia. Era a questo proposito che esplodevano le peggiori discussioni con Esteban, il quale aveva un'altra opinione in merito. Giustizia! Ah! È giusto che tutti abbiano le stesse cose? I pigri le stesse dei lavoratori? I tonti le stesse degli intelligenti? Non succede neppure con gli animali. Non è questione di ricchi o poveri, bensì di forti e deboli. Sono d'accordo sul fatto che tutti dobbiamo avere le stesse occasioni, ma questa gente non fa alcuno sforzo. È molto facile tendere la mano e chiedere l'elemosina. Io credo nello sforzo e nella ricompensa. Grazie a questa filosofia sono arrivato ad avere quello che ho. Non ho mai chiesto un favore a chi che sia e non ho commesso alcuna disonestà, il che prova che chiunque può farlo. Io ero destinato a essere un povero Cristo che trascriveva pratiche notarili. Quindi non accetterò idee bolsceviche in casa mia. Andate a fare la carità nei rioni popolari se volete. Questo è giusto. È giusto per la formazione delle signorine, ma non venitemi a dire le stesse stupidate di Pedro Terzo Garcia, perché non lo sopporterò. Era vero. Pedro Terzo Garcia stava parlando di giustizia alle Tre Marie. Era l'unico che osava sfidare il padrone, nonostante le frustate che gli aveva dato suo padre, Pedro II Garcia, ogni volta che lo coglieva sul fatto. Già da quando era molto giovane, il ragazzo faceva viaggi senza permesso fino in paese per procurarsi libri in prestito, leggere giornali e conversare con il maestro della scuola, un comunista fervente che anni dopo avrebbe ammazzato con una pallottola in mezzo agli occhi. Inoltre scappava di notte al bar di San Lucas, dove si riuniva con alcuni sindacalisti che avevano la mania di ricostruire il mondo tra un sorso e l'altro di birra, o col gigantesco e magnifico padre José Dulce María, un sacerdote spagnolo con la testa piena di idee rivoluzionarie che l'avevano fatto relegare dalla Compagnia di Gesù in quello sperduto angolo del mondo. Ma nemmeno così aveva rinunciato a trasformare le parabole bibliche in pamphlet socialisti. Il giorno in cui Esteban Trueba scoprì che il figlio del suo amministratore stava introducendo letteratura sovversiva tra i suoi mezzadri, lo chiamò nel suo ufficio e davanti a suo padre gli diede una scarica di botte con la sua frusta di pelle di serpente. «Questo è il primo avvertimento, moccioso di merda», gli disse senza alzare la voce e guardandolo con occhi di fuoco. «La prossima volta che ti trovo a molestarmi la gente ti sbatto dentro». Nella mia proprietà non voglio rivoltosi perché qui comando io e ho diritto di circondarmi della gente che mi piace. Tu non mi piaci, sicché già lo sai. Ti Ti sopporto per tuo padre che mi ha servito lealmente per molti anni, ma stai attento perché può finire molto male. Vattene. Pedro III Garcia era uguale a suo padre, bruno, con i lineamenti duri scolpiti nella pietra, con grandi occhi tristi, capelli neri e dritti tagliati a spazzola. Aveva solo due amori, suo padre e la figlia del padrone, che aveva amato fin dal giorno in cui avevano dormito nudi sotto la tavola della sala da pranzo nella loro tenera infanzia, e Blanca non si era liberata dalla stessa fatalità. Ogni volta che andava in vacanza in campagna e arrivava alle Tre Marie, in mezzo a un polverone provocato dalle automobili cariche di un caotico bagaglio, sentiva il cuore batterle come un tamburo africano per l'impazienza e l'ansia. Era la prima a saltar giù dal veicolo e a mettersi a correre verso casa, e incontrava sempre Pedro III Garcia nello stesso posto dove si erano visti la prima volta, in piedi sulla soglia, seminascosto dall'ombra della porta, timido e accigliato, con i suoi pantaloni lisi, scalzo, i suoi occhi da vecchio che scrutavano la strada per vederla arrivare. I due correvano, si abbracciavano, si baciavano, ridevano, si davano spinte affettuose e rotolavano a terra, tirandosi i capelli e gridando di allegria. «Alzati, piccola, lascia stare quello straccione!» strillava la nana cercando di separarli. «Lasciali stare, nana, sono bambini e si vogliono bene!» diceva Clara, che ne sapeva di più. I bambini scappavano di corsa, andavano a nascondersi per raccontarsi tutto quello che avevano accumulato in quei mesi di separazione. Pedro le consegnava, vergognoso, certi animaletti intagliati che aveva fatto per lei con qualche pezzo di legno, e Clara e Blanca ricambiava con regali che aveva messo da parte per lui. Un temperino che si apriva come un fiore, una piccola calamita che per opera di magia attraeva da terra i chiodi arrugginiti. L'estate in cui lei era arrivata con una parte del contenuto dei bauli dello zio Marcos aveva circa 10 anni e Pedro III leggeva ancora a stento, ma la curiosità e l'entusiasmo ottennero quello che non aveva potuto ottenere la maestra con le bacchettate. Trascorsero l'estate leggendo vicini tra le canne del fiume, tra i pini del bosco, tra le spighe di frumento, discutendo sulle virtù di Sandokan e di Robin Hood, sulla sfortuna del corsaro nero, sulle storie vere ed edificanti del tesoro della gioventù, il malizioso significato delle parole proibite nel dizionario della Real Accademia della Lingua Spagnola, il sistema cardiovascolare su tavole in cui si vedeva un tale senza pelle con tutte le vene e il cuore a nudo, ma con le mutande. In poche settimane il ragazzino aveva imparato a leggere con voracità. Entrarono nel mondo vasto e profondo delle storie impossibili, dei folletti, delle fate, dei naufraghi che si mangiano l'un l'altro dopo aver tirato a sorte, delle tigri che si lasciano ammaestrare per amore, delle invenzioni affascinanti, delle curiosità geografiche e zoologiche dei paesi orientali, dove ci sono geni nelle bottiglie, dei draghi nelle caverne e delle principesse prigioniere nelle torri. Di continuo andavano a trovare Pedro Garcia, il vecchio, al quale il tempo aveva rovinato i sensi. Stava diventando cieco a poco, una pellicola celeste gli copriva le pupille. Sono le nuvole che mi stanno entrando dalla vista, diceva. Era molto contento delle visite di Blanca e di Pedro III, che era suo nipote, ma lui l'aveva già dimenticato. Ascoltava i racconti che loro selezionavano dai libri magici e che dovevano gridargli all'orecchio, perché diceva pure che il vento gli stava entrando dalle orecchie e per questo era sordo. In cambio, insegnava loro a immunizzarsi contro le punture di insetti nocivi e dimostrava l'efficacia del suo antidoto mettendosi uno scorpione vivo sul braccio. Insegnava loro a cercare l'acqua. Bisognava tenere con le mani un ramo secco e camminare tastando il terreno in silenzio, pensando all'acqua e alla sete che ha il ramo, finché improvvisamente, sentendo l'umidità, il ramo non cominciava a vibrare. Lì bisognava scavare, gli diceva il vecchio, ma chiariva che quello non era il sistema che lui usava per individuare i pozzi nella zona delle Tre Marie, perché lui non aveva bisogno del ramo. Le sue ossa avevano così sete che, passando vicino all'acqua sotterranea, per profonda che fosse, il suo scheletro l'avrebbe percepita. Faceva loro vedere le erbe di campo e gliele faceva odorare e assaggiare, accarezzare, perché ne conoscessero il profumo naturale, il sapore, la venatura, e poter in tal modo identificarle a una secondo le loro proprietà curative. Calmare la mente, espellere i fluidi diabolici, nettare gli occhi, fortificare il ventre, stimolare il sangue. In quel campo la sua saggezza era così grande che il medico dell'ospedale delle monache andava a trovarlo per chiedergli consigli. Comunque, tutta la sua saggezza non aveva potuto guarire la febbre convulsa di sua figlia Pancia, che la mandò all'altro mondo. Le aveva dato da mangiare escrementi di mucca e siccome non si erano rivelati efficaci, le aveva dato sterco di cavallo. L'aveva avvolta in coperte e fatto sudare il male fino a ridurla a pelle e ossa. L'aveva frizionata con grappa e polvere da sparo per tutto il corpo, ma era stato inutile. Pancia se n'era andata con una diarrea interminabile che le aveva succhiato le carni e fatto patire una sete insaziabile. Vinto, Pedro Garcia aveva chiesto al padrone il permesso di portarla al villaggio su un carro. I due bambini l'avevano accompagnato. Il medico dell'ospedale delle monache aveva esaminato attentamente Pancia e aveva detto al vecchio che era perduta, che se gliel'avesse portata prima e non le avesse provocato quelle sudate avrebbe potuto fare qualcosa per lei, ma ormai il suo corpo non poteva più trattenere alcun liquido ed era come una pianta dalle radici secche. Pedro Garcia si offese e continuò a negare il suo fallimento, anche quando tornò col cadavere della figlia avvolto in una coperta, accompagnato dai due bambini spaventati, e lo scaricò nel cortile delle Tre Marie, borbottando contro l'ignoranza del dottore. La seppellirono in un posto privilegiato, nel piccolo cimitero accanto alla chiesa abbandonata ai piedi del vulcano, perché lei era stata, in un certo senso, moglie del padrone, visto che gli aveva dato l'unico figlio che portava il suo nome, nonostante non ne avesse mai portato il cognome, e un nipote, lo strano Esteban García, che era destinato a svolgere un ruolo terribile nella storia della famiglia. Un giorno il vecchio Pedro García narrò a Blanca e a Pedro III il racconto delle galline che si erano messe d'accordo per affrontare una volpe che si infilava ogni notte nel pollaio per rubare le uova e divorarsi i pulcini. Le galline avevano deciso che erano stufe di sopportare la prepotenza della volpe, si erano organizzate per aspettarla e quando era entrata nel pollaio le avevano bloccato la strada, l'avevano circondata e le erano volate addosso con tante beccate da lasciarla più morta che viva. Allora si vide che la volpe scappava con la coda tra le gambe inseguita dalle galline. Finì il vecchio. Blanca rise della storia e disse che era impossibile perché le galline nascono stupide e deboli e le volpi nascono furbe e forti, ma Pedro III non rise. Rimase tutta la sera pensieroso, ruminando il racconto della volpe e delle galline, e forse fu quello l'istante in cui il bambino cominciò a farsi uomo. 5. Gli amanti. L'infanzia di Blanca trascorse senza grandi scosse, alternando quelle calde estati alle Tre Marie, in cui scopriva la forza di un sentimento che aumentava in lei, alla routine della capitale, simile a quella delle altre bambine della sua età e dei suoi mezzi, nonostante la presenza di Clara mettesse una nota stravagante nella sua vita. Ogni mattina compariva la nana con la colazione a scuoterla dalla pigrizia, a sorvegliare la sua toeletta, a tenderle i calzerotti, a metterle il cappello, i guanti e il fazzoletto, a riordinarle i libri nella cartella, mentre intercalava preghiere mormorate per le anime dei morti con raccomandazioni ad alta voce affinché Blanca non si facesse abbindolare dalle monache. Quelle donne sono tutte delle depravate, l'ammoniva, che scelgono le allieve più carine, più intelligenti e di buona famiglia per chiuderle in convento, radono la testa alle novizie, poverette, e le destinano a passare la vita facendo torte da vendere e curando i vecchietti degli altri. L'autista portava la bimba alla scuola, dove le prime attività della giornata erano la messa e la comunione obbligatoria. Inginocchiata nel suo banco, Blanca aspirava l'intenso odore dell'incenso e dei gigli di Maria e soffriva il supplizio composito della nausea, della colpa e della noia. Era l'unica cosa che non le piaceva della scuola. Amava gli alti corridoi di pietra, il nitore immacolato dei pavimenti di marmo, le bianche pareti nude, il Cristo di ferro che vegliava sull'entrata. Era una creatura romantica e sentimentale, incline alla solitudine, con poche amiche, capace di emozionarsi fino alle lacrime quando fiorivano le rose nel giardino, quando aspirava il tenue odore di tela e sapone delle monache che si chinavano sui suoi compiti, quando indugiava per sentire il silenzio triste delle aule vuote. Passava per timida e malinconica. Solo in campagna, con la pelle dorata dal sole e la pancia piena di frutta tiepida, correndo con Pedro III attraverso i campi, era ridente e allegra. Sua madre diceva che quella era la vera Blanca e che l'altra, quella in città, era una Blanca in letargo. Per via dell'agitazione costante che regnava nella grande casa dell'angolo, nessuno, tranne la nana, si era reso conto che Blanca stava trasformandosi in una donna. Entrò nell'adolescenza di colpo. Aveva ereditato dai Trueba il sangue spagnolo e arabo, il portamento signorile, il contegno superbo, la pelle olivastra e gli occhi scuri dei suoi avi mediterranei, ma attenuati dall'eredità della madre, da cui aveva tratto la dolcezza che nessun Trueba aveva mai avuto. Era una creatura tranquilla, che si divertiva da sola, studiava, giocava con le bambole e non dava il minimo segno di propensione naturale per lo spiritismo di sua madre o per gli attacchi di rabbia del padre. La famiglia diceva in tono scherzoso che era l'unica persona normale dopo parecchie generazioni e davvero sembrava un prodigio di equilibrio e di serenità. Verso i 13 anni il suo petto cominciò ad arrotondarsi, la vita ad assottigliarsi, dimagrì e si allungò come una pianta concimata. La nana le aveva raccolto i capelli in un nodo, l'aveva accompagnata a comprare il suo primo reggiseno, il suo primo paio di calze di seta, il suo primo vestito da donna e una collezione di salviette nane per quello che lei chiamava la dimostrazione. Intanto sua madre continuava a far ballare le seggiole per tutta la casa, a suonare Chopin col piano chiuso e a declamare i bellissimi versi senza rima, argomento o logica, di un giovane poeta che aveva accolto in casa e di cui si cominciava a parlare dappertutto senza che lei notasse i cambiamenti che si producevano in sua figlia, senza vedere la divisa della scuola con le cuciture strappate, senza rendersi conto che la faccia da frutto acerbo si era trasformata in un volto di donna perché Clara viveva più attenta alla sua aura e ai suoi fluidi che ai chili e ai centimetri. Un giorno la vide entrare nella stanza da cucito col suo vestito da passeggio e si meravigliò che quella signorina alta e bruna fosse la sua piccola Blanca. L'abbracciò, la riempì di baci e le predisse che avrebbe avuto presto le mestruazioni. Si sieda, che le spiego di cosa si tratta, disse Clara. Oh, non si disturbi, mamma, è già quasi un anno che mi vengono tutti i mesi, rise Blanca. I loro rapporti non subirono grandi cambiamenti con lo sviluppo della ragazza, perché erano basati sui solidi principi della reciproca accettazione e sulla capacità di scherzare insieme di quasi tutte le cose della vita. Quell'anno l'estate si annunciò presto con un caldo secco e afoso che calò sulla città con un riflesso di brutto sogno, sicché anticiparono di un paio di settimane il viaggio alle Tre Marie. Come tutti gli anni, Blanca aveva aspettato ansiosamente il momento di vedere Pedro III e, come tutti gli anni, scendendo dall'automobile, la prima cosa che fece fu di cercarlo con lo sguardo nel posto di sempre. Scoprì la sua ombra nascosta sulla soglia della casa e saltò fuori dal veicolo, precipitandosi incontro a lui con l'ansia di tanti mesi trascorsi a sognarlo, ma vide che il ragazzo si voltava e scappava via. Blanca passò tutto il pomeriggio a girare per i luoghi dove si riunivano, chiese di lui, lo chiamò gridando, lo cercò nella casa di Pedro García, il vecchio, e infine, al cader della notte, andò a coricarsi vinta, senza aver mangiato. Nel suo enorme letto di bronzo, dolente e meravigliata, affondò la faccia nel guanciale e pianse sconsolatamente. La nana le portò un bicchiere di latte e miele e indovinò subito la causa della sua angoscia. Mi congratulo, disse con un falso sorriso. Ormai non hai più l'età per giocare con quel moccioso pieno di pulci. Mezz'ora dopo entrò la madre a baciarla e la trovò che singhiozzava gli ultimi singulti di un pianto melodrammatico. Per un attimo Clara cessò di essere un angelo distratto e si collocò all'altezza dei semplici mortali che a 14 anni soffrono la prima pena d'amore. Volle indagare, ma Blanca era molto orgogliosa o già troppo donna e non le diede spiegazioni, sicché Clara si limitò a sedersi un momento sul letto e ad accarezzarla finché non si fu calmata. Quella notte Blanca dormì male e si svegliò all'alba circondata dalle ombre della sua grande stanza. Rimase a guardare i cassettoni del soffitto finché non udì il canto del gallo e allora si alzò. Aprì le tende e lasciò che entrasse la dolce luce dell'alba e i primi rumori del mondo. Si avvicinò allo specchio dell'armadio e si guardò attentamente. Si tolse la camicia e osservò il proprio corpo per la prima volta nei dettagli, comprendendo che tutti quei cambiamenti erano la causa per cui il suo amico era fuggito. Si mise gli indumenti vecchi dell'estate precedente, che quasi non le entravano più, e si avvolse in uno scialle e uscì in punta di piedi per non svegliare i familiari. Fuori la campagna si scrollava la pigrizia della notte e i primi raggi del sole attraversavano come sciabolate le cime della cordigliera, riscaldando la terra e facendo evaporare la rugiada in una sottile spuma bianca che cancellava il contorno delle cose e trasformava il paesaggio in una visione di sogno. Blanca cominciò ad andare verso il fiume. Tutto era ancora calmo. I suoi passi schiacciavano le foglie cadute e i rami secchi, producendo un lieve crepitio, unico suono in quel vasto spazio addormentato. Sentì che i filari di pioppi imprecisi, i campi dorati di grano, i lontani monti violacei che si perdevano nel cielo trasparente del mattino, erano un antico ricordo nella sua memoria, qualcosa che aveva visto proprio così, e che quell'istante l'aveva già vissuto. La finissima guazza della notte aveva inzuppato la terra e gli alberi. Sentì gli indumenti leggermente umidi e le scarpe fredde. Respirò il profumo della terra bagnata, delle foglie marce, dell'humus che le infondeva un piacere ignoto ai suoi sensi. Blanca arrivò al fiume e vide l'amico della sua infanzia seduto nel posto dove tante volte si erano dati appuntamento. In quell'anno Pedro III non era cresciuto come lei, perché era sempre lo stesso bambino, magro, panciuto e bruno, con una saggia espressione da vecchio negli occhi neri. Vedendola, si alzò e lei calcolò che era più alta di lui di mezza testa. Si guardarono sconcertati, sentendo per la prima volta che erano quasi due estranei. Per un tempo che sembrò infinito, rimasero immobili, abituandosi ai mutamenti e alle nuove distanze, ma in quel momento trillò un passero e tutto fu di nuovo come l'estate precedente. Tornarono a essere due bambini che corrono, si abbracciano e ridono, cascano in terra, si rotolano, vanno a sbattere contro i sassi, mormorando i loro nomi instancabilmente, felici di stare insieme ancora una volta. Infine si calmarono. Lei aveva i capelli pieni di foglie secche che lui le toglieva una a una. Vieni, voglio farti vedere una cosa, disse Pedro III. La prese per mano. Camminarono assaporando quel risveglio del mondo, trascinando i piedi nel fango, raccogliendo steli teneri per succhiarne la linfa, guardandosi e sorridendosi senza parlare, finché non giunsero in un campo lontano. Il sole stava in cima al vulcano, ma il giorno non aveva ancora finito di installarsi e la terra sbadigliava. Pedro le fece segno di gettarsi a terra e di stare in silenzio. Si avvicinarono strisciando a uno sterpeto, vi girarono intorno e allora Blanca la vide. Era una bellissima puledra baia che partoriva sola sulla collina. I giovani immobili, facendo sì che non si udisse nemmeno il loro respiro, la videro ansimare e sforzarsi finché non apparve la testa del puledro e poi, dopo molto tempo, il resto del corpo. Il piccolo animale cadde a terra e la madre cominciò a leccarlo, lasciandolo pulito e lustro come legno incerato, incoraggiandolo col muso perché provasse ad alzarsi. Il puledro cercò di mettersi in piedi, ma le sue fragili zampe di neonato gli si piegarono e rimase, abbandonato a guardare sua madre con aria triste, mentre questa nitriva salutando il sole del mattino. Blanca sentì la felicità che le scoppiava in petto manifestarsi in lacrime nei suoi occhi. Quando sarò grande, mi sposerò con te e vivremo qui alle Tre Marie, disse in un sussurro.